cane o da non conoscente della, di questa filosofia, però è stato un discorso abbastanza ben compreso e molto ben è stato sintetico e molto, diciamo, io l'ho sentito molto. So he said he's not familiar with the practice and all, but he has felt very strongly what you said. It was very clear and synthetic and to the point. Okay, well, at least. Synthetic. Okay. Anything? There's nothing very subtle about this. It's all straightforward, unlike some of the other topics, the other contemplations. And there's absolutely nothing that you said that anyone could dispute or disagree with. Okay. Why doesn't it happen? Molto diretto, molto chiaro, molto, cioè nessuno potrebbe negare, no, la giustezza di quello che è stato detto. Ma allora perché non succede nel mondo? There's still plenty, so it seems, plenty of people who fall into the trap of ill will over and over again. It's not just the ill will, there's also other negative mental states that are contributing towards conflict. Ci sono persone che continuano comunque a cadere nella trappola della malevolenza, ma non è solo la malevolenza, ci sono anche tanti altri stati mentali negativi che contribuiscono al conflitto. It seems that over maybe over the last especially over the last century, more and more interest is being developed in ways of studying peace. What are the factors that lead to inner peace? What are the factors that lead to peace in the community, and so on and so forth? And so some people are saying, just like there is ill will and other factors that are contributing to conflict, well, so too there must be factors that lead to peace. And this, we as human beings, we can learn to become peaceful beings. Allora, pare che negli ultimi 100 anni ci sia un maggiore interesse verso nuove strategie che portino alla pace e alla risoluzione pacifica dei conflitti. E l'idea dietro questo è che se ci sono dei fattori negativi come la malevolenza e altri che portano al conflitto, appunto, c'è la possibilità di sviluppare nella mente degli altri stati mentali positivi che invece possono condurre a uno stato di pace interiore e ovviamente esteriore. And what seems to be relevant in this certain matter is when a conflict has arisen, let's say in some country, then it's really necessary that those who hold peace and harmony in high esteem, that they speak up. That they speak up against any form of violence and against transgressions of precepts and so on and so forth. And the more people do this, the better. And this gradually will lead to a change of views in the society. E quindi quando nasce un conflitto in una nazione è di fondamentale importanza che le persone, coloro che hanno a cuore la pace, parlino, facciano sentire la loro voce e intervengano se vedono che c'è una mancanza di rispetto per la vita umana, per i precetti e via di seguito. Allora questo, un po' per volta, questo comportamento farà in modo che le cose miglioreranno. e si andrà verso una maggiore pace nel mondo. And so, as certain Buddhists, we have a certain responsibility in this regard. E come buddhisti noi abbiamo una responsabilità a questo riguardo. No, so when we see that a conflict is going on without, or a conflict is going on, and it's not really necessary, and the means could be changed, and then this needs to be pointed out. E quindi quando vediamo che nasce un conflitto ed è assolutamente non necessario, allora questo va assolutamente fatto notare. And to give you a practical example, in or Nepal, has seen a pretty violent insurgency for maybe the last 12 years, and or for about a 12-year period, and only the last 2 years were marked by strong steps towards peace. Allora, per fare un esempio pratico, in Nepal negli ultimi 12 anni ci sono stati molte, una situazione di grande, come si può dire, grande disordine, grande conflittualità, e solo negli ultimi 2 anni sono stati fatti dei passi avanti verso invece una risoluzione, una soluzione pacifica. As at first both parties to the conflict, namely the government and the Maoist insurgents, thought that they could win this internal war with more and more weapons, with more and more violence. Inizialmente le due parti in causa, cioè il governo e i ribelli maoisti, pensavano di poter vincere sull'altro, sul nemico, aumentando sempre di più le loro armi. However, over the years, both parties realized that they couldn't win, and so, then by then the civil society in Nepal stood up and said, this is enough, stop this. E a un certo punto però queste due fazioni hanno capito che non potevano vincere sull'altro, e la popolazione civile a un certo punto ha preso una posizione e ha detto adesso basta. And so our Buddhist community in Lumbini, comprising of different Buddhist traditions, we've strongly spoken up for peace in Nepal. E la nostra comunità buddista, che fa parte di, che comprende varie tradizioni, ha chiaramente preso una posizione rispetto alla, al raggiungimento della pace. And Venerable Dr. Lama, Vietnamese monk who has a monastery in Lumbini, he kept reminding both parties to the conflict to follow the teachings of their foremost son, namely the Buddha. È un monaco thailandese che ha un che abate di vietnamita. Vietnamita che ha un monastero lì a in Lumbini, giusto? Yes. Continuava a ricordare a entrambi le parti di rispettare gli insegnamenti del loro figlio più importante, che è il Buddha. Yeah. And so, lately things have stabilized somewhat, and just recently I read that previously the Maoists threatened the king to leave the country. E adesso la situazione si è un po' stabilizzata, e ho letto che precedentemente i maoisti avevano minacciato il re e volevano praticamente farlo andare via dal paese. And that is what they said in the past, and now just recently the Maoist chairman has said the king should be given a gracious exit. A meaning not a humiliating exit, but something that is, he will not lose his property and he will be able to stay in the farm. Allora, questo era quello che dicevano precedentemente, ma adesso pare che un portavoce dei maoisti abbia detto, beh, al re va consentito un'uscita dignitosa. Quindi il mantenimento dei suoi palazzi, delle sue proprietà, eccetera. Yeah. And so what you find with this is just an amazing shift in attitude from previously pretty violent, you know, to much more peaceful now. Quindi c'è proprio un cambiamento di atteggiamento. Precedentemente era molto più violento e adesso va verso un atteggiamento più pacifico. Ok, maybe this much. Now let's do the metta chanting.